quando vuoi. Sera a tutti, penso che possiamo cominciare. Benvenuti al quinto seminario organizzato da Verlan. Verlan è un'associazione di studenti e studentesse che sta organizzando un ciclo di seminari e a seguire il 26 e il 27 maggio due giorni di convegno. Abbiamo scelto quattro temi che sono il lavoro, la biopolitica, il linguaggio e i beni comuni. Oggi è il giorno della biopolitica, nello specifico ci occuperemo di un tema che è il rapporto tra corpo e potere. Ora, su questo tema ci sarebbe molto da dire, se non altro per il fatto che, almeno da un punto di vista strettamente filosofico, il tema del corpo è un tema che ha un'estensione spaziale e temporale ovviamente spropositata. Si va da Platone, celebre gioco di parole tra le parole greche soma e sema, no? Corpo e tomba, quindi una visione dualistica del rapporto tra corpo e mente, in cui il corpo è in sostanza la tomba dell'anima, cioè una dimensione transeunte in cui l'anima si trova a stare per un periodo limitato, quando in realtà ciò che di eterno vi è nell'essere umano è l'aspetto dell'anima e della mente. Ora, data appunto l'ampiezza del termine del rapporto tra corpo e potere, vorrei appunto portare due brevi contributi alla discussione, che ovviamente sarà al libero arbitrio dei nostri interlocutori, insomma, accettare oppure no come punto di riflessione. E vorrei partire appunto dalla relazione mente-corpo. Perché? Perché sin dall'inizio, agli albori della filosofia occidentale, il tema del corpo in filosofia credo che si sia sempre pensato in relazione al tema dell'anima, che poi a partire dalla modernità, con il processo di secolarizzazione, diventa mente. Ora, la tradizione dualista, e questo è il mio punto, data per morta e sepolta dopo l'avvento delle scienze naturali, in realtà rimane dominante nel senso comune e, ad esempio, in quella sfera, nella sfera della bioetica, cioè della riflessione etica sui temi, sui nuovi temi posti in atto dallo sviluppo delle scienze naturali. Come dicevamo l'altro giorno, no, in una conversazione con Marco Caponera, che è uno dei due nostri interlocutori, è una sfera che, quella della biopolitica, che in Italia ha un determinato orientamento politico-culturale, in quanto è, tra virgolette, colonizzata dal Vaticano. Quindi, quest'idea per cui tra mente e corpo si dà un rapporto dualistico, cioè due sostanze diverse, sebbene sia stata data per morta e sepolta in filosofia e in altri settori del sapere, in realtà nella vita di tutti i giorni e nel senso comune vive e vegeta, sta molto bene, non a caso ha un grande potere, perché è ad esempio il presupposto di certe visioni del mondo religiose che sono dominanti, come nel caso, nell'esempio che ho già fatto, della bioetica. Ora, dato che noi ci occupiamo di politica, nel senso che partiamo da una riflessione filosofica o concettuale per poi trarre delle conseguenze politiche, oppure partiamo dalle considerazioni politiche per trarre delle conseguenze filosofiche concettuali, quello che vorrei chiedere è cosa comporta in termini politici il predominio di una visione dualistica mente-corpo. Ora, sarò breve, dico solo una cosa, cioè che questa idea per cui mente e corpo sono due sostanze diverse è assolutamente funzionale al paradigma unico di libertà. Questo paradigma è trasversale alle diverse visioni, cioè è accettato dal liberalismo classico come è accettato dall'autoritarismo alla Hobbes. Vediamo perché. Ora, se corpo e mente sono separati, la mente è intesa come qualcosa di privato, intangibile, qualcosa che dall'esterno non può essere toccato. La mia mente è qualcosa alla quale solo io ho accesso, è la sfera, come dice Kant, della mia libertà, e quindi il potere non può avere accesso né può, insomma, esercitare se stesso su di essa. Mentre invece il corpo è la vera posta in gioco del potere politico, perché il potere politico agisce sui corpi. Questo che significa? Significa che nel momento in cui allo Stato, al potere, viene impedito di agire in maniera coercitiva sul corpo, allora la libertà giunge a compimento e non è possibile nessun altro miglioramento. È la celebre tesi della fine della storia di Hegel, ripresa poi da Fukuyama in tempi recenti. Ora, se Pensiamo che questa idea del dualismo mente-corpo è sbagliata e invece riteniamo che la relazione corpo e mente è qualcosa che viene prima e non dopo i singoli alimenti, allora questo cambio di paradigma ha ovviamente degli effetti politici. Per esempio, proviamo a sostenere che il corpo è governabile per via immaginaria, cioè è possibile agire sul livello dell'immaginazione e della fantasia per ottenere delle regolarità di comportamento e ovviamente la capacità di prevedere il comportamento degli uomini e delle donne è qualcosa che sta molto a cuore all'esercizio del potere. Ora faccio un esempio che ha fatto la filosofa americana Judith Butler quando è venuta a parlare da noi a Roma Trena o La Magna. Le hanno dato come i media hanno creato un immaginario in cui il terrorismo è più pericoloso dell'inquinamento, sebbene il numero delle vittime causate dal primo rispetto al secondo è assolutamente risibile. Ora, pensare che questo immaginario non abbia nessun effetto sul corpo è una follia, in quanto tutto ciò agisce sul corpo, in quanto crea una gerarchia, ovvero un sistema di preferenze tra modelli di comportamento abitudinario. Ad esempio, votare repubblicano e tenere un'arma da fuoco in casa piuttosto che fare la raccolta differenziata. Quindi questo per dire quanto in realtà, se pensiamo alla relazione mente e corpo come qualcosa che viene prima, credo che abbiamo, almeno a mio parere, anche una visione più chiara di qual è il potere dei media, cioè i media non hanno solo un potere sulla sfera dell'opinione e del gusto personale, ma in realtà hanno un grande potere, una grande influenza sul corpo attraverso la creazione di modelli di comportamento. Ora, la seconda breve riflessione che vorrei fare sulla biopolitica è un dubbio che ho sentito, insomma una curiosità che ho sentito tra anche gli altri amici e amiche di Verlan. E riguarda il rapporto tra biopolitica, che è una definizione eminentemente, come dire, filosofica, comunque sia, che riguarda le scienze umane, e invece le scienze naturalistiche, cioè le scienze che si occupano del corpo umano secondo un paradigma che potremmo dire quantitativo. Ora, la mia domanda elementare è: dato che le scienze naturali si occupano del corpo e dato che la biopolitica si occupa del rapporto tra corpo e potere, possono le scienze naturali dirci qualcosa su tale rapporto tra corpo e potere? Ora, a prima vista sembrerebbe di no. Ci sono diverse risposte. La prima è una risposta che possiamo dire storicistica o culturalistica. Allora, le scienze naturali non possono dire nulla sul rapporto mente-corpo perché il corpo di cui si occupano le scienze sociali, ad esempio, cioè la sociologia, l'antropologia, così il corpo possiamo dire socio-politico-antropologico, è differente dal corpo naturalistico, cioè stiamo parlando di due cose diverse. Quando parliamo del corpo dal punto di vista antropologico, non stiamo parlando degli enzimi, della circolazione del sangue, ma si parla di due cose diverse. E anzi, potrebbe aggiungere qualcuno, guai a considerare il discorso naturalistico come un discorso scientifico nel senso di neutrale ed obiettivo, perché il discorso naturalistico è, al pari degli altri discorsi, prodotto e vettore di relazioni di potere. Quindi da questo punto di vista l'impossibilità delle scienze naturali di dire qualcosa sul rapporto tra corpo e potere è un'impossibilità in linea di principio. Cioè il problema non è che le scienze naturali non sono arrivate a un livello sufficiente per dirci qualcosa su questo, ma proprio non è possibile in generale. Ora, una seconda risposta negativa dall'altro lato, cioè dal lato delle scienze naturali, parte da appunto, un interrogativo che molti si fanno. Cioè, perché esiste una sociobiologia e non una politicobiologia? Allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere un attimo come funziona e cosa è la sociobiologia. Farò un esempio, c'è un libro molto interessante, si chiama Unto Others, che si occupa dell'altruismo e il meccanismo che segue nel fare appunto una descrizione biologica di un concetto sociologico come l'altruismo è molto semplice. Si prende un concetto, l'altruismo, se ne dà una definizione naturalistica e si dice: l'altruismo è quando un individuo fa qualcosa contro il proprio utile. Presa questa definizione si creano dei modelli elementari di comportamento astratti dalla vita reale, cioè si dice questo individuo fa una cosa X all'individuo B, insomma questo non ha nessun utile per il primo individuo, quindi cosa succede? Così e via discorrendo. Ora il problema è che se un concetto come quello di altruismo è naturalizzabile, con efficacia o no, questo non sta a noi dirlo, il concetto di potere sembra difficilmente naturalizzabile, cioè come si fa a dire cosa significa il potere, il concetto di potere in biologia, in chimica o in fisica o non so, in anatomia. Dunque, ancora una volta, una risposta negativa alla nostra questione sul rapporto tra scienze naturali e relazione mente-corpo, ancora una volta impossibile in linea di principio, perché il concetto di potere non è naturalizzabile. Ora, quindi sembrerebbe che si risolve in un nulla di fatto. Le scienze biologiche non dicono niente sul rapporto potere-corpo. Ora, prima di dare la parola ai nostri... Scontrato. Il Come? Papa ti direbbe il contrario, no? Cioè, non posso parlare, vabbè, scusa, Sì, prego. esatto. Ora, nonostante appunto sembrerebbe di no, chiudo prima di dare la parola ai nostri interlocutori, che sono Michela Fusaschi, che insegna antropologia qui al DAMS a Roma 3, e Marco Caponera, che se non sbaglio collabora con la cattedra di ermeneutica alla seconda università di Tor Vergata qui a Roma. Ecco, cioè, vorrei condividere con voi questi due dubbi. Cioè, il primo è, se diciamo che il potere, se è vero che il potere costruisce schemi di comportamento per via immaginaria, è inutile sapere come funziona l'immaginazione, ad esempio a livello cerebrale? Oppure, se diciamo che la democrazia leaderistica, di cui sentiamo parlare molto spesso, purtroppo per noi, in Italia, scatena meccanismi di identificazione e su questi meccanismi crea il proprio successo, ora è inutile sapere quali neuroni sono coinvolti nei processi di simulazione del comportamento altrui? In breve, sebbene non si possa chiedere alle scienze naturali di porre le basi di una discussione politica, possiamo tuttavia chiamarle in causa a fini strumentali? Grazie. Lascio la parola a Marco Caponera. Dunque, vabbè, intanto vabbè, ringrazio ragazzi di Verlan per l'invito e soprattutto Valerio, ovviamente è partita da lui questa cosa. Allora, dunque, come dire, allora, la seconda domanda non saprei proprio che cosa rispondere. Alla prima, nel senso che probabilmente sì, però ponendola in maniera un po' diversa e magari vorrei, se ci riusciamo, magari arrivare dopo a parlare di questo. Perché ha delle implicazioni complesse che probabilmente ci vorrebbe molto tempo per affrontarle in maniera seria, quindi eviterei di farlo all'inizio. Magari possiamo farlo in un secondo momento quando parliamo, quando magari apriamo alla conversazione, perché io vorrei fare un intervento introduttivo abbastanza breve, per lasciare un po' di tempo, mi interesserebbe molto in realtà uno scambio, quindi avere delle osservazioni, vorrebbero essere le mie idee, suggestioni, provocazioni per poi discutere su queste cose. Non vorrei avere uno spazio chiuso all'interno del mio intervento, non ho delle verità da comunicarvi oggi, quindi non credo che sia utile un monologo su questi temi. Partirei su quella che era il tema che tu avevi lanciato del rapporto mente-corpo, perché per una serie di motivi. Io sono partito nel lavoro filosofico, diciamo così, occupandomi di mass media e quindi lavorando con la cattedra di filosofia del linguaggio, ma anche attraverso interessi miei personali, ho come dire, affrontato tematiche legate ai media e quindi apparentemente tematiche legate alla mente. Poi, per tutta una serie di motivi, sono approdato allo studio della filosofia orientale classica e alla filosofia contemporanea spagnola, che sembrano strade completamente differenti, e lo sono, anche schizofreniche in alcuni casi, però in realtà dentro le quali ho trovato una serie di concetti, di idee, di stimoli che messi in dialogo, messi a confronto, probabilmente possono essere interessanti. Come dice François Julien, quello che è un po' il nostro, che potrebbe essere il nostro approccio, l'approccio dell'occidentale, cioè di chi è avvezzo allo studio della filosofia, che ha le proprie origini, o almeno fissa le proprie origini nella filosofia greca, il conoscere, l'approcciare la filosofia cinese, la filosofia orientale genera delle possibilità di pensare, lui definisce così, di pensare l'impensato, il che non significa avere, subire la fascinazione di un pensiero esotico e quindi inserirlo, così come viene fatto oggi abbastanza diffusamente, dentro principi che sono completamente occidentali e quindi fare un pot-pourri, fare un miscuglio che poi genera quella che viene definita, io definisco in senso dispregiativo, la New Age, perché questo sarebbe sostanzialmente un tradire entrambe le tradizioni filosofiche. Quello che io ritengo interessante è proprio sulla scia di François Julien, cioè l'idea di pensare l'impensato, cioè cercare di pensare al di là dei nostri stereotipi di pensiero, quindi al di là delle categorie fissate dal pensiero occidentale. Prima si partiva dalla concezione corpo-anima, no? Da questa dicotomia fissata già dai greci e poi ripresa a piene mani dalla tradizione religiosa cristiana in generale, no? E quindi lì, per esempio, c'è uno stereotipo, c'è una fissazione di concetti dentro una storia che è ben precisa. Ora, se si fa lo sforzo di andare dall'altra parte del mondo, si scopre che contemporaneamente, nella stessa epoca dei nostri greci, si pensava il rapporto mente-corpo in maniera completamente differente. Conoscere queste due posizioni, metterle anche a confronto, cioè verificare quello che c'è dentro l'una, quello che è il pensato dell'una e il pensato dell'altra, fa scaturire delle riflessioni ulteriori, senza però, ripeto, il rischio è quello di cercare di fare una commistione, questo è comunque, ripeto, cioè nell'idea c'è sempre quella di rispettare le tradizioni filosofiche e culturali e quindi di evitare di fare dei calderoni. A questo, per il mio personale ambito di studi, come dire, queste strade le interseco con la filosofia spagnola contemporanea, che anche qui è come se si affrontasse un mondo differente all'interno di un mondo che è coerente, cioè il pensiero contemporaneo spagnolo, che da noi è molto poco conosciuto, ad avvicinarlo si presenta in maniera assolutamente originale, cioè ci sono dei pensatori, dei filosofi in questo periodo storico, potremmo anche discutere del perché arrivino soltanto ora dei grandi filosofi spagnoli, a parte quelli che conosciamo in maniera accademica e scolastica, ma questo sarebbe un discorso legato alla storia, al franchismo, eccetera. Però ecco, questa filosofia, la tradizione filosofica spagnola in questo momento offre la possibilità all'interno del pensiero occidentale di vedere, di avere un taglio ancora differente, che è differente da quello che produce la filosofia francese da ormai diverse decadi, quello che produce la filosofia tedesca da ormai qualche invece centinaio d'anni, quindi e in dialogo con quella che è la visione classica. Quindi ecco, ho fatto questa premessa, scusate, un po' lunga, poi sarò più breve, per dire che poi alla fine quello che è la mia riflessione sull'idea di mente e corpo tende ad avere più in simpatia l'approccio orientale, nel senso che per quanto ci riguarda, storicamente noi abbiamo il nostro linguaggio, il linguaggio delle culture, quindi delle lingue occidentali, alla parola corpo sostanzialmente si fa riferimento con un solo termine. Noi abbiamo la parola corpo e ci facciamo bastare questa nelle varie lingue. In Cina ci sono almeno quattro modi differenti per definire il corpo e tutti e quattro, nessuno dei quattro è sinonimo del nostro corpo. Ce ne possiamo, per quello che ci interessa, perché non vorrei fare un discorso di linguistica e tantomeno di lingua orientale, lingua cinese, quello che ci interessa è che queste quattro sfumature, questi quattro approcci al concetto di corpo fanno uscire immediatamente, drammaticamente, da questo dualismo, da questa posizione, cioè il corpo viene visto e come il corpo che noi abbiamo, che noi nel quale viviamo, diciamo l'attualizzazione del nostro corpo, direbbero i cinesi, e anche come il principio generante del corpo. Quindi ci sono termini diversi per definire la stessa cosa. E lo stesso rapporto mente-corpo non è un rapporto dicotomico, cioè non è un rapporto di separazione, ma un rapporto di sovrapposizione. Non è pensabile nel pensiero classico cinese la distinzione tra mente e corpo. Questo è un concetto che già di per sé è interessante, cioè mente e corpo sono in dialogo, sono in stretta connessione. Filosofi, ne possiamo citare alcuni, Chuang Tzu, Mencio, per i due approcci distinti ma comunque sovrapponibili, pongono proprio su questo la loro scia di intervento, cioè mente corpo, così come anche le grandi cose, le piccole cose, cioè noi possiamo intendere la mente come le questioni che hanno a che fare etiche, eccetera, e quindi come quello che riguarda i grandi quesiti che hanno a che fare con la vita dell'uomo, dell'essere umano, e il corpo come le piccole questioni, il sostentamento, la vita del corpo, la vita materiale, eccetera. In realtà questi due aspetti non sono, per gli orientali classici, perché purtroppo oggi rimane ben poco nella cultura cinese di tutto questo, perché ha subito una colonizzazione molto forte nel pensiero, dal punto di vista politico, sociale, eccetera, eccetera. Quindi questa posizione qui in realtà scardina a monte questo. Ma perché faccio questo discorso? Perché avendo a che fare con i media, mi sono accorto che tutto quello che si dice dei media è che tendono ad assoggettare, no? Visto che parliamo del tema dell'assoggettamento, tendono ad assoggettare la mente, sostanzialmente, no? Cioè sarebbero lo strumento, ne parlavamo anche l'altro giorno quando avevamo iniziato questa discussione sui temi che si poteva scegliere di affrontare, si parlava del fatto che attraverso i media, attraverso la retorica, attraverso l'imbonimento delle masse, si precede e si evita l'uso dei carri armati, no? Della violenza fisica sui corpi, perché se io rendo le persone malleabili da un punto di vista mentale, cioè se faccio sì che le persone condividano gli ideali del potere, non ho motivo di reprimere le loro azioni, perché quello che poi loro faranno sarà sicuramente compatibile con quelli che sono i voleri del sistema, no? Quindi di fatto sarebbe come se attraverso la mente noi riuscissimo a dominare il corpo. In realtà questo è una mera illusione, perché in realtà anche qui è impossibile assoggettare la mente e non il corpo. È come se noi potessimo pensarci separati, come se noi potessimo, come se la mente fosse qualcosa di distinto dal corpo. Ma in realtà, per esempio, non soltanto la filosofia orientale, ma anche la filosofia della mente, studi recenti di filosofia della mente che in questo prendono moltissimo dal campo scientifico, naturalistico, tra virgolette, provano senza ombra di dubbio che il concetto di mente, l'astrazione del concetto di mente in un qualcosa che è immateriale, quindi non corporeo, non ha motivo di esistere, perché irrorazioni nervose e quant'altro, quindi il rapporto tra il nostro cervello e il nostro corpo non ha soluzione di continuità, quindi in realtà noi siamo da testa a piedi mente e da testa a piedi corpo, quindi anche dal punto di vista degli sviluppi ultimi della filosofia della mente abbiamo un superamento di nuovo di questa dicotomia. Quindi sostanzialmente, anche prendendo a tema quello che era la riflessione di Deleuze, per esempio, che immagino sia noto abbastanza a voi che siete qui, l'idea di un rapporto col potere è per Deleuze, ma anche per tutta una serie di altri filosofi, un rapporto che dovrebbe portare, e questo sicuramente, a un'eterogenesi del soggetto. Questo anche Marcuse parlava di qualcosa di molto simile a questo nella sua filosofia sul pensiero unico, e quindi avere un rapporto di eterogenesi, quindi di nuova nascita, quindi di emancipazione rispetto alla vulgata del potere, che ha a che fare col soggetto, ma con un soggetto che è non separato, cioè non esiste emancipazione del corpo che presupponga un asservimento della mente, e viceversa. In più, questa fase qui, sempre cercando di... Io ovviamente schematizzo e sintetizzo, perché poi su questi spunti vorrei poi tornare e discuterli insieme a voi, quelli che reputate più interessanti, quelli che trovate meno interessanti vi lasciamo cadere, quelli che trovate più interessanti magari ci torniamo su, perché non vorrei togliere il tempo prezioso alla discussione. Un altro tema che conferma questa idea è, diciamo, un'analisi a posteriori del lavoro di Debord, La società dello spettacolo, no? Un'opera notissima. Fino a qualche tempo fa era sembrata un'opera ormai obsoleta, superata, perché lo spettacolare che lui andava ad affrontare in realtà era sostanzialmente, si presentava fino a qualche tempo fa come completamente emancipato dalla società, cioè era la società dello spettacolo, era in qualche modo, aveva assunto un'identità propria e indipendente dalla società. In realtà oggi, se noi facessimo, ma qui in questa sede non lo faremo perché non è di nessuno interesse, uno studio sociologico su quello che i media propongono a livello di spettacolare, troviamo evidentemente che l'idea dello spettacolare diffuso e dello spettacolare integrato, di cui parlava poi De Boer, tra l'altro, nei commentari alla Società dello Spettacolo successivamente, il testo che seguiva di 20 anni, il primo, fanno sì che oggi noi possiamo vedere, osservare come la società dello spettacolo non sia altro che lo spettacolo della società, dove la rappresentazione dei corpi sostituisce completamente la rappresentazione di idee, di contenuti, di professionalità. Non esiste più una professione televisiva, una professione radiofonica che sia tale. Esistono dei corpi portati a divenire modello, divenire spettacolo. Non esistono competenze specifiche del mondo dello spettacolo, esistono corpi specifici che lo spettacolo produce e riproduce. Questo nelle trasmissioni di prima serata, di seconda, di terza, nell'intrattenimento radiofonico mattutino piuttosto che pomeridiano, a ben vedere. Purtroppo questo avviene anche a livello del cosiddetto contropotere. Anche chi si in qualche modo prova oggi a scagliarsi contro il potere, in realtà lo fa a partire dal proprio corpo, autolimitando il proprio intervento, e lo fa rappresentando se stesso nelle modalità che lo spettacolo prevede. Sicuramente ciascuno di voi avrà fatto esperienza di una discussione politica legata alla visibilità del proprio intervento, alla visibilità del proprio operato, alla manifestazione, rappresentazione del proprio intervento. Ma se analizziamo però quelle che sono le categorie, i presupposti, i concetti, le analisi che noi andiamo a portare, osserviamo che c'è una certa... Tutti i concetti che utilizziamo spesso e volentieri appaiono obsoleti, vecchi, stantii, cioè si prova ad applicare concetti, quindi a ragionare con categorie che non sono al passo con la società. La società lavora a una velocità, la politica, ma anche il potere, a una velocità che è almeno doppia, e quindi spesso si tende semplicemente a rappresentare se stessi dentro categorie che sono convenienti, che sono comode, che sono accoglienti e che hanno e tendono a manifestare non tanto un'idea di novità e di originalità nel pensiero, quanto una rappresentazione di corpi, una ostentazione di antagonismo che ha a che fare più col corpo, più con la presenza che non con un'analisi, con una osservazione di quelle che sono le categorie. E quindi il paradosso viene da sé, cioè se analizziamo in questi termini la questione, a partire da questi autori e quindi proseguendo la loro analisi, osserviamo come ci sia un assoggettamento che parte mentale, o quantomeno riteniamo essere mentale, ma che poi diventa altrettanto corporeo, perché gli assoggettati sono assoggettati che riescono a manifestare la loro essenza soltanto essenza di corpi. A quel punto manca la mente. Questo è un paradosso che vi pongo, sul quale possiamo discutere, mi interesserebbe discuterne con voi. Quindi, a un assoggettamento che si intende mentale, che si vorrebbe mentale, si risponde col corpo, quindi in qualche modo rispondendo con la stessa natura dell'assoggettamento. Quindi è come se noi avessimo a disposizione oggi, e anche se trattiamo in questo modo il nostro approccio biopolitico, è come se noi avessimo a disposizione soltanto il nostro corpo, è come se della mente non potessimo, sulla mente non potessimo più fare affidamento, il che, per tornare al discorso iniziale, è non altro che riconoscere questo dualismo mente-corpo, quindi in qualche modo riconoscere implicitamente che siamo assoggettati a questa dicotomia, e quindi facciamo assolutamente riferimento soltanto alla nostra cultura, e quindi non stiamo di fatto agendo in nessun modo rispetto a questa dicotomia, a questa separazione. In realtà quello che invece dovrebbe, almeno a mio modo di vedere, dovrebbe essere un atteggiamento emancipatorio, quindi di eterogenesi rispetto alla situazione che il soggetto vive, dovrebbe essere proprio invece un'integrazione mente-corpo, perché se noi riuscissimo, se riusciamo a superare questa dicotomia, se riusciamo a riunire mente-corpo, riusciamo a realizzare pienamente questa che è la nostra vera soggettività, cioè nella scissione mente-corpo rimaniamo imbrigliati in una dicotomia. O oltre questa scissione, in realtà riusciremmo a compiere, quando riusciamo ad andare contro questa dicotomia, riusciamo a compiere quello che è il cammino di cui parlava Deleuze, no? Quando lui parla del soggetto, di questa molteplicità. Scusate il cellulare, l'ho lasciato acceso perché stiamo registrando non avendo altri strumenti, quindi potrebbe squillare, potrebbe, come adesso, ricevere messaggi. Vi chiedo scusa in anticipo per questo. E attraverso questo ricongiungimento, che non è altro che il ricongiungimento di cui parlano i Chuang Tzu, di cui parla Mencio, eccetera, riusciamo a compiere quello che è il concetto, cioè riusciamo a raggiungere quello, il concetto di cui parlava Deleuze, che è questo soggetto molteplice. Per me il passaggio fondamentale è quello che descrivo, per esempio, in uno dei miei libri del vis-à-vis, cioè in realtà compiere questo vis-à-vis tra mente e corpo, che si guardano allo specchio, che guardano fra loro e soprattutto che guardano l'altro. Cioè, nel ricongiungimento di questa scissione, cioè quindi della mente che guarda il corpo e viceversa, è possibile produrre una soggettività. Questa soggettività sarà e sarebbe in grado di guardare l'altro e quindi superare se stessa. All'interno di questa dicotomia, invece, questo è impossibile. Questo è quello che io ritengo. Quindi, in realtà, è un meccanismo di eterogenesi, ricongiungimento e poi moltiplicazione. Senza questo passaggio in realtà a una soggettività vera e quindi all'individualismo non lo supereremo mai. Questo di vis-à-vis fa in modo che noi possiamo in qualche modo di spiegare una vita che sia non soggetta e quindi assoggettata al potere, ma in qualche modo produttrice, produttiva e creatrice di alternative reali. All'interno di questa dicotomia che noi subiamo da secoli, probabilmente questo non è possibile. Questo è testimoniato non tanto dalle mie parole, quanto da tutta una serie di esempi che possono essere fatti. Io penso, per esempio, e qui appunto per citare, per esempio, un autore a cui sono molto legato, Guido Zingari nel 96 scriveva questo testo che si intitolava Oscenità interiori, nel quale metteva a confronto l'osceno del corpo, quindi le oscenità esteriori, e creando un'idea, un concetto che era quello di oscenità interiori, che erano invece le oscenità della morale, le oscenità dell'etica. Ecco, questo esempio, questo testo, che se vi capita vi consiglio di sfogliare, vi consiglio di leggere, esemplifica molto bene quanto io vi stavo cercando di riassumere un po' goffamente per via di una inevitabile sintesi che c'è da fare. E esempi come quello, ma anche il concetto di rifiuto, ma ce ne sono differenti di lavori che possono in qualche modo confermare, che da cui io per esempio ho tratto ispirazione per pensare questo. E infatti a me viene in mente lo sceno della mente contrapposto allo sceno del corpo. Si fa un gran parlare dello sceno del corpo, ancora oggi lo sceno della mente non viene fuori, ma è naturale che nessuno dei due possa essere scisso dall'altro, nessuno dei due possa essere separato. Oltre questo, un altro elemento che vorrei aggiungere a questo discorso è quello dell'accettazione. Noi abbiamo nella nostra tradizione di pensiero una sorta di finalismo scatologico o meno, cioè l'idea che la vita sia un passaggio e che la morte sia un trauma e che vivere dopo la morte sia, come dire, un obiettivo da perseguire. In realtà, anche qui, un po' nell'insegnamento della filosofia cinese classica, un po' nell'insegnamento della filosofia contemporanea spagnola, viene meno questa idea, cioè, riflettendo su questi due approcci, a me è venuto spontaneo pensare al fatto che non ci possa essere altra strada che quella di accettare, sostanzialmente, se si vuole sottrarsi a questo gioco di potere, accettare l'inutilità costitutiva della vita, cioè della propria vita. E in questo caso propria vita e vita le distinguerei, cioè la vita possiamo intenderla come la vita ovvia, la vita che vorrebbe il potere, il sistema imporci come l'unica percorribile, e la propria vita come quella vita che io faccio mia, eludendo e rifiutando tutto ciò che non sono disposto a vivere. Questo è un processo, Santiago López Petit, questo filosofo spagnolo che ho tradotto in alcune opere, parla appunto di esacerbare la propria vita, cioè di portare la propria vita oltre ciò che io non sono disposto a vivere, rifiutare tutto ciò che io non sono disposto a vivere, per fare della mia vita qualcosa che sia mio e non qualcosa di ovvio prodotto da altri. Intorno a questo ruota gran parte del lavoro di Santiago López Petit, e qui si trova molto bene l'idea, si ritrova anche molto bene l'idea tutta orientale, che non essendoci vita dopo la morte, non è importante la morte in quanto tale, perché la morte in quanto tale fa parte del processo biologico nel quale noi siamo chiamati. Quello che, emancipandoci dall'idea heideggeriana della paura della morte, è l'idea di avere piuttosto una lunga vita, cioè riempire la propria vita di qualcosa e non aspettare di provare a prolungare oltre quello che la vita ci offre, evitare quindi in qualche modo di aver paura della propria vita e della propria morte. Esacerbare, perché ogni volta che noi ci confrontiamo in termini politici con la società, col potere, ovviamente ci sono sia degli aspetti negativi che tendiamo sistematicamente a riconoscere come tali, sia degli aspetti positivi, cioè aspetti che nella vita in qualche modo ci tengono legati. Ecco, questi aspetti positivi, questo che molto spesso ha a che fare appunto con le dinamiche legate ai corpi, eccetera, fanno sì che, non, che il nostro compimento, l'esacerbazione della nostra vita non sia mai completo, e quindi noi rimaniamo invischiati dentro questa dicotomia. Ecco, riuscire a superare questa dicotomia ha un po' a che fare con quello che era il superamento della condizione dell'essere umano, di cui già parlava Nietzsche in maniera mirabile, a mio modo, e poi si completa per esempio una riflessione di questi filosofi. Ora, tutto questo messo così a, cioè, come dire, ragionamento che ha un inizio e una fine, ma poi in realtà quello che c'è nel mezzo non fa parte del ragionamento, in realtà sarebbe nella vita di ciascuno di noi. Quindi sostanzialmente quello che per me è importante comunicare oggi è che mettere in discussione il potere significa non fare i discorsi del potere, cioè evitare di cadere nella logica del potere nella quale spesso noi rimaniamo invischiati, cioè i mass media ci propongono sistematicamente delle tematiche sulle quali noi andiamo poi a fare una nostra riflessione. In realtà, se ci volessimo emancipare dal potere e dal potere sul nostro corpo, che come vi dicevo per quanto mi riguarda è lo stesso che il potere della nostra mente, dobbiamo per forza di cose rifiutare i discorsi del potere. Quindi quello che per me è interessante, è importante, ora io non ho fatto volutamente i discorsi legati al corpo che hanno a che fare con idee di biopolitica più stratificate, proprio perché volevo cercare di sottrarmi a questi discorsi e volevo spingere un po' la riflessione a cercare di costruire, ma fra noi, quindi mi auguro che questo intervento vi abbia in qualche modo scosso e spero che vogliate intervenire magari per aggiungere delle cose, magari per insultarmi, magari per dire come la pensate in maniera analoga o contrapposta, eccetera. Quindi siamo qui. L'aspetto più interessante di questo intervento io mi auguro che venga dalla discussione che ne possa nascere. Quindi io direi che per quanto mi riguarda ho terminato e vi lascio la parola. Grazie a Marco Caponera anche per la coincisione. Lasciamo la parola a Michela, cioè, anzi diamo la parola, lasciamo le idee. Corpo e potere. Concediamo, lasciamo. Essendo l'unica femminuccia da questa parte, insomma, già, questa dovrebbe dire lunga, ma avrete modo con la Dominiani, che è molto cattiva di me. Intanto io vi ringrazio, vi do un ringraziamento particolare a Pierluigi che sostanzialmente mi ha tenuto aggiornata e al vostro collega di cui non mi ricordo il nome, Davide, a cui chiedo scusa perché non ricordo il nome perché sono stati i miei interlocutori. Io mi trovo un po', mi direbbero i francesi, coincé, nel senso un po' schiacciata tra voi filosofi e quindi con dei discorsi. Io sono una vecchietta di 41 anni, laureata tanti anni fa in filosofia, che poi ha abbandonato completamente la filosofia per l'antropologia, trovando nell'antropologia una grande passione e un lavoro. E mi trovo un po', dico, schiacciata perché, a differenza dei filosofi, gli antropologi hanno un discorso, se volete, e questo mi scuserete, molto più semplice dei vostri, per un motivo forse banale, che è quello di lavorare con le persone sul terreno tutti i giorni. E lavorando con le persone sul terreno tutti i giorni, è ovvio che i discorsi che ci lasciate a noi diventano fonte di ispirazione, però poi i problemi concreti sono quelli che ci si trova, come dire, di fronte. E io vi faccio un discorso che scardina un po' quello che volevo dire. Non so se riesco a rispondere alle domande che facevi all'inizio. Il tuo nome? Matteo. Matteo. Perché, come dire, io ho un piccolo problema dai vostri discorsi, cioè capire cos'è l'oggetto, qual è il soggetto, cioè cosa parliamo, quando parliamo di corpo, che cosa vogliamo intendere, è un mio limite. Allora, dal mio punto di vista, io appartengo a una tradizione di studi che sicuramente, come ricordava anche parlando della filosofia, che il collega che mi ha preceduto, Marco, quando si parla di corpo in antropologia significa attraversare una storia di un pensiero che è quella che porta a ragionare sulla questione del corpo, che è nato come analisi della Cartesio, diciamo, agli antropologi, in avanti, quindi dalla dualità corpo-mente, acera e quant'altro, e che poi si è confrontata con la diversità. Cioè l'antropologia nasce nel momento in cui le persone, come dire, si scopre che non esiste soltanto l'Occidente, l'antropologia è connotata purtroppo nel bene e nel male con la colonizzazione, e quindi con il fatto che c'è quello che si riteneva un oggetto corpo, cioè quello che noi tutti abbiamo alla nascita, fatto di carne, ossa, ciccia e quant'altro, nella realtà poi quando si vanno a fare le prime indagini antropologiche, dico subito una cosa che forse è interessante, perché l'antropologia, gli antropologi non parlano di corpo in quanto tale all'inizio dei loro studi, studiano le persone, il corpo è uno degli elementi all'interno dell'analisi antropologica, tanto per dire, Malinowski quando va a studiare nelle Trobriand, così non parliamo solo di casa nostra, poi vorrei fare qualche caso concreto, non parla di corpo, però è un elemento della sua analisi. Gli antropologi cominciano a studiare realmente il corpo molto di recente, tenendo conto che il solco che separa la tradizione filosofica e l'antropologia è una scienza cosiddetta umana molto recente, quindi è molto recente rispetto alla filosofia, ci schiaccia sicuramente. Comincia negli anni 30, con gli anni 30 c'è un certo signore che peraltro non ha mai fatto ricerca sul campo, che però dice una cosa banale, molto utile, che forse anche potrebbe essere utile alla discussione, ecco, su questo vado veloce, che si chiama Marcel Mauss, il quale dice: il più naturale oggetto dell'uomo è il suo corpo, tutti gli uomini usano il proprio corpo in maniera diversa. Banale, direte voi. Per l'epoca, nel momento in cui si pensava che l'Europa fosse l'unico centro immaginario dove è possibile e che il corpo avesse un andamento suo uguale per tutti, che quindi questo oggetto corpo nella nascita abbiamo tutti, fosse poi gestito, trattato, maltrattato in maniera uguale da tutte le parti del mondo. L'antropologia fa questo saltino in più, cioè dire, a partire dalle tecniche del corpo, il corpo certo alla nascita ce l'abbiamo tutti, ma poi socialmente, a seconda dal punto di vista dove ci mettiamo a lavorare, le persone usano il proprio corpo, lo lavorano, noi potremmo dire, ho lavorato, poi magari arrivo ai casi personali di studio. A seconda di noi lo guardiamo, il corpo e quindi anche il potere, perché il potere fa parte della società, è un elemento della società, il potere. Non è che il potere è uno. I poteri, dal punto di vista antropologico, il corpo non può essere uno e non può essere assolutamente quello biologico, se non, potremmo dire, allo stato di natura, come piacerebbe tanto a Benedetto XVI, che usa la natura a ogni più sospinto, quindi quello che diceva chi mi precedeva, io lo tradurrei in una laicità ipocrita, perché ciò che attraversa l'Italia è molto diverso da quello che attraversa, non so, ad esempio la Francia, che è stata citata per altre cose, perché in Francia che è una repubblica, che sarebbe un altro concetto sul quale sarebbe interessante, dove la repubblica conta il cittadino in quanto cittadino, non, e che è un altro elemento forse della discussione. Cioè, per un antropologo parlare di corpo è faticoso, bisogna parlare di una pluralità di corpi e di gestioni differenti. Per quello io mi trovo, lo dico un po' incastrata, perché mi diventa difficile, no, fare un discorso generale, se non a partire dai concetti, poi scaliamoli nei casi concreti. Perché se noi andiamo sui territori oggi a Roma e parliamo di immigrazione, parliamo di un certo tipo di corpo che è schiacciato all'interno di una biopolitica. Di un certo tipo di biopolitica, diciamo, io vengo da una regione, il Piemonte, che è governata dalla Lega da decenni oramai, e lì abbiamo una biopolitica spinta agli estremi e abbiamo anche le norme, bisogna anche intendersi cosa intendiamo anche lì con biopolitica. Se noi parliamo sempre sui territori, questione femminile, abbiamo un'altra biopolitica e un altro tipo di gestione dall'alto dei corpi, del potere, e poi tra potere e normative legislative c'è un altro passetto in più da fare, che forse bisognerebbe disambiguare anche nelle discussioni che forse faremo oggi. E quindi e se andiamo, penso alla procreazione assistita, a questa immagine terrificante che se la vede Lida Dominiani disarticola chi l'ha proposta, non so chi l'ha fatta. Se andiamo poi nei casi concreti, ad esempio tutto quello che riguarda la parte delle deleghe, del mondo delle associazioni, insieme a corpo ci metterei denaro, oltre che i media, allora arriveremmo a dire, ad esempio, per vedere un antropologo, parlare di corpo, biologia, senza inserirlo all'interno di un contesto sociale, se riprendiamo veramente da Bourdieu quelle che lui chiamava le strutture strutturanti, cioè le memorie incorporate, per cui un corpo è sempre rispondente, anche nel momento in cui va. Chi mi usava il contropotere, usa il corpo come contropotere sempre all'interno di una società inserito. Quindi anche, vi dico questo, ad esempio, una delle mie esperienze principali di studio è stata quella del cosiddetto lavorio hard sul corpo, per dirla tutte quelle che ne so, impiantazioni sottocutanee, scalpellamento del pene, tatuaggi hard, tutto ciò che e che quindi si distingue dal tatuaggetto meno. Tutto quello che è, una volta veniva definita da Bigi la controcultura, ad esempio la mia pratica di terreno, è anche la questione di maltrattino, trattare il corpo, rientra all'interno di un contesto sociale definito. Quindi maltrattarsi il corpo qui e ora e metterlo su internet dove le norme legislative c'entrano molto poco, non so se sono chiara le cose che dico. È un'altra cosa se ad esempio facciamo, non so, gli stessi studi all'interno di uno studio medico di un ginecologo estetico, per cui adesso va tanto di moda rifarsi la parte intima, è che è un'altra questione. Un'altra questione è appunto ciò che riguarda la procreazione. Allora, io preferirei, piuttosto che fare un dialogo tra me e me, essere magari in questo senso più, se volete, sfruttata. In una discussione, perché non vorrei fare questa cosa, già la disposizione fa, non me l'aspettavo, la disposizione così da voi studenti mi fa veramente molta impressione, perché anche questo la dice lunga di come percepite un dialogo. Io in un'aula autogestita non avrei mai messo questo frappone, una dimensione tra corpo e potere, se ci vogliamo riflettere. È un'osservazione molto banale. Gli antropologi poi lavorano, gli antropologi lavorano con la spazzatura, tutto ciò che è inutile per gli altri, gli antropologi diventa utile. E quindi l'unica cosa che volevo dire è che forse dal mio punto di vista, per come l'avevo interpretata io questo dialogo, magari o forse per voi, o magari mi sbaglio, quindi io vi ringrazio e vi saluto se non vi sono in questo utile, è magari cercare di. Io posso riesco a capire che rifiutare i discorsi del potere, che dice, su quale io, figuriamoci, sono assolutamente d'accordo. Però penso ad esempio alla questione dei mass media, di cui non sono esperta, quindi posso dire cose assurde, però ad esempio la questione dei poteri, c'entra, la questione dei mass media ha a che fare sicuramente molto con il corpo, anche un assoggettamento, ma anche un appiattimento di chi si fa riprendere magari, come dire, cioè, secondo secondo me, tagliando corto, il discorso berlusconiano sui media, oramai il suo tempo l'ha già fatto, non ha più da soggettare nessuno. Io vengo da una generazione dove non c'erano neanche i telefonini e che oggi sono diventati un elemento della priopercettività, direbbe qualcuno, cioè un elemento, un'estensione del corpo. Per cui tutto ciò che è tecnologico diventa naturalizzato per un antropologo e culturalmente connotato. Forse fare un altro discorso. Mi sembra che sono state messe tante cose al fuoco su piani diversi, e questa io denuncio forse una mia fatica personale. Quindi io mi taccio, poi se volete vi faccio casi concreti. Io ad esempio ho lavorato moltissimo sulla questione dello stupro etnico, sul quale lì parliamo ancora di un altro potere. È il focus che a me manca, nel senso che se vogliamo parlare di Occidente, la questione del corpo, delle politiche, dove dentro l'Occidente però a questo punto ci mettiamo anche la Cina, ad esempio, perché non possiamo dire che la Cina è... Ormai la Cina fa a pieno per quello che rappresenta oggi la Cina, è assolutamente in un discorso economicamente globale, e quindi connotare l'Occidente come fosse solo l'Europa e gli Stati Uniti a me personalmente fa fatica, a dire la verità. Quindi vorrei, forse nella discussione potrebbe essere più interessante, magari per me anche, per darvi una mano, se questo vi è utile, infine alla vista del convegno che volete fare, che tipo di focus si vuole... insomma, l'antropologia può essere di aiuto. L'unica cosa che voglio ricordare è che rispetto alla mia prospettiva, da almeno gli anni 60, quindi direi da Mary Douglas, da Pierre Bourdieu, siamo sempre negli anni 60, fino agli anni più recenti, gli antropologi hanno sempre concepito il corpo, lo taglio molto breve, come un mindful body, cioè all'interno del quale c'è sia l'aspetto del corpo fisico, sia l'aspetto del corpo sociale, quindi quello che possiamo definire per noi l'esperienza delle memorie incorporate. Noi possiamo nascere tutti uguali, tanto per dire, col corpo fatto di... però sono le esperienze individuali e l'acquisizione all'interno di un contesto sociale che definisce il corpo fisico rispetto alla società, e poi ci mettiamo accanto il potere. Quindi sono tre elementi, ad esempio per gli antropologi possono essere distinti, ma sono assolutamente inscindibili. E questo però non può, come dire, che inserirsi all'interno di un contesto sociale e all'analisi di singoli casi. Non so se riesco a rendere l'idea, nel senso che, come dire, l'elemento del politico interviene, e in Italia interviene pesantemente perché, guardate, che sulle questioni del politico, soprattutto sulla questione femminile, qui veramente chiudo, il mondo femminile, visto che ho visto nel vostro piccolo prontuario di biopolitica le prime due righe sul femminismo, il mondo del femminismo sulla questione della biopolitica del corpo delle donne, a Roma in particolare, si è lacerato. La Roccella, che è una delle personaggi peggiori del panorama politico italiano, sottosegretaria che voi conoscerete alle pari opportunità, non mi ricordo neanche. Ecco, la Roccella era una di estrema sinistra, cosiddetta catto comunista, che oggi ti parla della natura e impedisce, fa dei discorsi terrificanti sulla questione della procreazione assistita, perché poi le politiche vanno poi calate all'interno. Cioè, in Italia noi viviamo veramente dei temi di biopolitica. Sulla questione della bioetica, che accennavi tu all'inizio, anche lì, perché ad esempio io ho fatto molti studi sulla questione di immigrazioni e mutilazioni genitali femminili, che è un argomento che andrebbe trattato come un tema, non un problema. Se andiamo a vedere i comitati di bioetica regionali, per esempio in Toscana, dicono il contrario di quello che poi dice il comitato di bioetica nazionale. Allora dobbiamo capire cosa vogliamo anche lì, che tipo di discorsi si vogliono fare rispetto al potere. Qual è il potere? Il potere locale, facciamo un discorso generale, filosofico, utilissimo, io posso solo che imparare da voi, o lo caliamo nelle cose concrete, cerchiamo di capire come stiamo messi. Infatti direbbe dove stiamo andando, o stiamo miagolando nel buio. Scusate. Però io, come vedete, sono molto basica, sono disponibile a qualsiasi domanda, critiche, sono abituatissima, quindi potete... non ho... No, no, e non ho neanche dato risposta alle tue domande, ma mi mancano alcuni repère. A me piacerebbe magari sentire un caso studio, magari, se lei reputa, poi vabbè, se sono tutti, lei reputa possa essere interessante, insomma, per capire come l'antropologia vede questo rapporto, intanto tra corpi e potere, con un caso studio credo che potrebbe essere utile. Sì, io se volete, perché anch'io dovrei dare una risposta così al messaggio che è appena arrivato. Guarda, i casi di studio, uno si autocita, insomma, la ricerca consiste anche nel socializzare. Io ho lavorato molto sulle questioni della migrazione, il corpo delle donne legate appunto al tema delle mutilazioni genitali femminili, ho lavorato molto sulle questioni delle modificazioni hard rispetto appunto come vi ho detto, ho lavorato sulla questione dello stupro etnico, che però siamo, ci portiamo tutta un'altra parte. Ditemi voi qual è il. Ho lavorato molto sulla questione dell'antropologia politica, ma rispetto all'identità etnica, quindi non credo che possa essere interessante per voi. Cioè, mi occupo di genocidio, in particolare in Africa subsahariana. Questi sono i miei casi di studio. Poi mi dite anche quanto tempo ho, perché no, ditemi voi qual è che vi può essere più interessante rispetto alle vostre, a che cosa voi, visto che di dialogo lei diceva che sono, io mi sono occupata di stupro etnico, mi sono occupata di identità etnica, mi sono occupata di modifiche del corpo a vario titolo, diciamo da quelle più banali, tatuaggio micro a veramente scalpellamento degli organi genitali, mi sono occupata molto di questioni di modificazioni genitali maschili e femminili, tradizionali e neotradizionali, mi occupo di immigrazione. A me è interessante capire se effettivamente non so, la modificazione del proprio corpo possa essere all'interno di un determinato contesto sociale è quasi, come dire, imposta da un po' di... Mi piacerebbe capire se è così o no, quindi le rivolgo la domanda. Allora, beh, la modificazione del corpo è guidata da un potere altro? Allora, vi faccio... bisogna capire... Allora, vi faccio due casi speculari. La questione delle... Tutti saprete che cos'è un'infibulazione, ok? E che quindi vi dà la percezione di come, ad esempio, in antropologia la questione del potere. Allora, l'infibulazione consiste in un'operazione che viene fatta, poniamo ad esempio in Somalia, attraverso la quale, sul quale questo governo ha stanziato 4 milioni di euro. Poi sarebbe interessante capire da questo punto di vista che, perché vi faccio questo accenno. Allora, è un'operazione attraverso la quale si modifica radicalmente l'organo genitale femminile, e che non ha lo scopo di ledere l'organo di per sé, cioè non è messa in atto in Somalia per fare del male, ma perché attraverso quella operazione, su quale sto veramente tagliando con l'accetta, no, il segno non è ricercato di per sé, ma per il fine sociale che produce. Qual è il fine sociale che produce? Che all'interno di un contesto dove c'è una dominazione maschile profonda, che non ha bisogno di parole o di fatti particolari, ma c'è perché preme, e potremmo dirlo per certi versi anche nel nostro contesto, cioè una dominazione maschile profonda, il fatto che una donna è chiusa, perché l'infibulazione chiude, fa sì che questa donna all'interno di quel contesto sociale profondamente gerarchizzato si può sposare e può avere dei figli, ok? L'obiettivo è quello, il segno non è ricercato di per sé, ma per l'effetto sociale che produce. Una labia plastica, se io, Michela Kusaschi, vado dal ginecologo estetico Y, Carlo Rossi, scusate, non so se qualcuno si chiama Carlo Rossi, e chiedo di fare una labia plastica che consiste nella riduzione della clitoride e dell'asportazione parziale delle piccole labbra, il segno non è ricercato, non lo ricerco a fini sociali, cioè la società non mi riconosce, cioè mi dice ti sposi o non ti sposi, io lo faccio se per me, però c'è una norma per cui se io, c'è una norma in Italia, per cui se io vado Michela Rosaschi, 41 anni, mi faccio fare questa labbra plastica, che è un'operazione estetica, non succede nulla. Se la stessa persona è una donna somala, c'è una legge in Italia voluta prima da Consul, approvata trasversalmente da destra a sinistra, quindi è un caso di biopolitica reale, c'è una norma che ha modificato l'ordinamento giudiziario italiano, per cui un discrimine per cui c'è il diritto a modificare il proprio corpo contro il dovere di non lederlo, chiaro questa cosa, c'è una norma in Italia per cui se la stessa cosa la chiede una donna somala rischia di andare in carcere per 10 anni, questo è un caso di biopolitica, perché nel nostro ordinamento giudiziario prima del 2006 c'era una norma uguale per tutti, per cui bianchi, neri, gialli, verdi, cittadini, di tutte le qualità, che modificavano il loro corpo, si dice come dire, attentare, il diritto a modificare il proprio corpo contro il dovere di non lederlo, per cui se tu fai una cosa, che quelle si chiamano le lesioni gravi, gravissime, puoi incorrere in sanzioni amministrative penali. Cosa è successo? Voluta prima dalla Lega e poi dal centrodestra, poi approvata trasversalmente a destra e a sinistra, ha detto no, siccome gli immigrati però, si richiede agli immigrati, se ci avete fatto caso, che siano più corretti degli altri, quella che Sagliada chiamava l'ipercorrettezza del corpo dell'immigrato, allora si chiede all'ipercorrettezza del corpo dell'immigrato, quella stessa cosa per cui devono sapere l'italiano adesso se aprono un'azienda e così via. C'è una norma che ha cambiato un codicillo che ha aggiunto agli articoli 582 e 583 del codice penale, per cui si dice gli immigrati che fanno una mutilazione sugli organi genitali femminili sono. Capite qual è il discrimine? Che si crea per la prima volta nell'ordinamento giudiziario un elemento che fa sì che uno che non è di origine italiana, per cui noi abbiamo ancora, visto che parliamo di corpo, insieme alla Germania siamo gli unici che acquisiscono la cittadinanza attraverso il sangue. Come dire, ci capiamo, e non attraverso il suolo, ad esempio la Francia. È il concetto della razza, di corpo, crea un discrimine tra le persone. Questa è un atto di biopolitica. La stessa cosa è l'analisi preimpianto nella procreazione assistita. Questo è un caso... in 4 minuti. Sì. Io volevo capire bene cosa intende lei. Bisognerebbe chiedere se ma questo fatto quello dire dai filosofi. Ma io non credo che sia così da separare, cioè mi fa un po' impressione il fatto di sentire a me un antropologo che dice che è più concreta di un filosofo, cioè capisco che al suo ambito, quello non ci piove, però... certo, non mica facevo le gerarchie io, No, non so fare le gerarchie, però appunto, si può fare un discorso comune? Sì. In cui ciascuno fa il suo, però, non capisco se il fatto che, mi interessa capire, se il fatto che si dica, prima lei ha detto, io sono più concreta il fatto che... No, ma non è, sì, ma non è una critica che io facevo. No, mi interessa proprio capire questo rapporto, questo... Il dialogo è che ad esempio un antropologo fa più fatica come dire, fare un discorso generalizzante che ha delle sue come dire, positività che l'antropologia da questo punto di vista non ha, perché gli antropologi quando io ad esempio facevo il discorso dell'infibulazione non è fatto di per sé ma per l'effetto sociale che questo produce, pure in Somalia ha una forma di biopolitica, no? Talmente incorporata nelle persone, per cui non ha neanche bisogno di esplicitarla, cioè quello che sarebbe la consuetudine di una società, per un somalo, una somala, non ci faccio fatto il caso della somala, per rispondere alla questione della biopolitica, per un antropologo la biopolitica, come la disparità dei generi, è un elemento presente all'interno della disciplina che va studiato di caso in caso e che quindi è il rapporto che si instaura, ad esempio, tra il corpo e il potere. Non so se... No, vorrei capire perché un antropologo piuttosto che un altro decide di studiare una società piuttosto che un altro di rispondere al paradigma biopolitico, per esempio. Ma io non ho detto che un antropologo usa il paradigma biopolitico. No. No, ho fatto un caso, dei casi concreti, cioè usiamo biopolitica a partire da Agamben. In Italia si usa più a partire da Agamben che da Foucault, secondo purtroppo, me. Purtroppo sì. Secondo me. No? Sì, poi Foucault sarebbe interessante andare. Che Foucault è tirato come una coperta di virus, non so se tu su questo sai. Sì, da Agamben per esempio. Vabbè, cioè, lui è il divulgatore di Foucault. In Italia, sì, come Eco, Ed Barthes, sì, noi facciamo i divulgatori. Speriamo. Vabbè, i divulgatori hanno un loro talvolta. No, no, no, certo. No, parliamo di cose concrete, no? Sì, no, ma io forse non. Cioè, quello che è la mia posizione, casomai in questo è assolutamente subalterna la questione filosofica, nel senso che è molto subalterna rispetto alla filosofia, nel senso che io non le so dare, non le posso dare una definizione di biopolitica, io non uso il l'antropologia non ha, posso dire. Perché però alla fine no, cioè nel senso ne è pure la visione del filosofo, quello che trae in generale con categorie transitorie, così quello fa. Nel senso Foucault quando parla di biopolitica non è che dice il rapporto tra corpo e potere dalla nascita della storia dell'uomo fino ai giorni, c'ha in mente un modello preciso di rapporto di conformazione del potere in una certa data storia, quindi anche lì in un certo ambito poi specifico, no? La clinica, eccetera, eccetera. Cioè in realtà anche anche perché poi è arrivato qui solo questo Foucault qua, quello che appoggiava il regime iraniano, ad esempio in Italia non è arrivato. Beh, chi è scritto sul Corriere? Beh, sì, ma tra lo scritto sul Corriere e leggere, cioè, possiamo comprendere che è diverso. Lui appoggiava la rivoluzione, vabbè, no, sì, però insomma, vari intellettuali di sinistra li appoggiava perché si pensa. Beh, comunque, però per dire, insomma, quindi anche la filosofia magari ha gli strumenti per lavorare su, però quindi dico questa. Ma cioè, ne ha molti di più che non gli antropologi. Gli antropologi partono da casi piccoli, mentre invece i filosofi hanno questa capacità di ritessere, in questo dicevo è subalterna, è ancillare Sì, però diciamo, ma vedi, non è, cioè, in realtà poi, cioè, ponendola così la questione, che è una questione che poi stabilisce un potere gerarchico tra le discipline, no? Cioè io la vedo, antropologia va da sé. Sì, ma sai, io non lo so, nel senso che si tratta semplicemente di chiavi di lettura, cioè io non vedo, poi ovviamente questo è opinabile, ma non trovo personalmente la filosofia una scienza. Quindi, e questo sono molto teresiano, per esempio, cioè da quello che tu dicevi, io trovo, per esempio, esemplificato come corpi subiscano ideologie differenti. E quindi quello che era, che era il concetto astratto di mente che prima provavo, come avevo detto, goffamente a spiegare, è esattamente questo. Cioè che c'è un intervento ideologico su un corpo. Quindi è inscindibile il rapporto tra la mente e il corpo. Cioè se noi omettiamo quella lettura, omettiamo una parte importante della comprensione della questione, perché quei due corpi non è che sono distinti soltanto perché vengono, perché non esiste il concetto di razza, cioè lo inventiamo il concetto di razza, non è che, no, lo inventi, lo applichi e quello è un intervento che ha a che fare col corpo e con la mente, in maniera inscindibile, inseparabile. Cioè un atteggiamento che implica entrambe le cose. Mi sembra che non ci sia una contraddizione, non ci sia una divergenza, una separazione, una gerarchia, mi sembra che siano letture su piani differenti della stessa questione. Ecco, cioè, mi pare, no? Interessante. Su questo sono assolutamente d'accordo, non mi pongo in contraddizione, dico solo che partiamo da punti di vista diversi, perché ad esempio appunto. Sì, ma poi io per esempio per non noi parlo. Processi cognitivi, quelli che tu chiami ideologie, fanno parte del fatto che una persona nasce e cresce all'interno di un contesto sociale non un altro. Se io alla nascita venivo portata in Papuasia, nascevo, crescevo con Però io non parlo a nome dei filosofi, nel senso che io non parlo a nome della filosofia, nel senso che io non credo di rappresentare in questo contesto la filosofia, in questo senso dico, io parlo per quella che è il mio approccio filosofico, poi i filosofi come Foucault fanno un lavoro molto diverso, io non ho citato Foucault perché non lavoro per esempio moltissimo a partire da Foucault, anche se conosco e apprezzo alcuni suoi lavori, preferisco muovermi in altri ambiti, cioè la filosofia in questo, specialmente la filosofia contemporanea, produce talmente tante scuole differenti che è difficile dire che cosa sia. La filosofia non esiste, esistono le filosofie. Chi pensa in termini, se chi pensa all'esistenza di una filosofia dovrebbe studiare un po' di filosofia, per capire un po' perché. Cioè, appunto, già il fatto di prendere in considerazione quasi nessun manuale di storia della filosofia, per esempio, prende in considerazione la filosofia cinese, per esempio. Eppure è filosofia, però c'è alcuni che ritengono che non lo sia per tutta una serie di motivi, quindi gli stessi motivi che rappresentano la nostra ignoranza nei confronti della filosofia. Poi sono perfettamente d'accordo, infatti lo dicevo, che la Cina di oggi non abbia niente a che fare con la Cina di ieri, così come la Grecia di oggi non ha nulla a che fare con la Grecia di Aristotele. Quindi, per questi giorni ancora di meno, no, però per dire che poi alla fine ci sono delle categorie, dei concetti che arrivano da una cultura e che poi vanno messi in cosa questione. Cosa che non si potrebbe dire, ad esempio, della filosofia africana, che non esiste. Per esempio, che poi anche lì ci sono, è paradossale, ma in realtà poi questo qui non c'entra nulla con il discorso che stiamo facendo, ma per esempio all'interno del nostro continente io... mi sono occupato appunto di filosofia spagnola e pare non esistere nemmeno la filosofia spagnola, e invece lì, se uno fa la fatica di andare, vedere, studiare, leggere, scopre che c'è un mondo che in realtà ci sembra così, non ci sembra esistere. In Francia oggi si dicono, si scrivono una quantità di idiozie pazzesche, una quantità di riscritture di quello che già filosofi come Foucault, Deleuze, eccetera, avevano già detto, che ha una noia mortale. Così come anche tanta letteratura filosofica italiana non è altro che la rilettura di tanta letteratura filosofica francese, tedesca, eccetera. Per pigrizia molto spesso la filosofia si chiude dentro, o la filosofia accademica si chiude dentro i suoi ambiti. In realtà, ecco, no, infatti poi questo sta da tutte le discipline. Poi in realtà anche l'altra cosa, cioè per esempio la filosofia è una apparentemente... sempre per la rilevazione culturale che ha, pare essere una disciplina che astrae, ma in realtà astrae dal concreto, astrae dalle concretezze, quasi dalla quotidianità. C'è questo concetto, per esempio, di vita, la propria vita, che è importantissimo nella filosofia spagnola, che dubitare della, come dire, consistenza oggettiva della vita è veramente dubitare proprio dell'esistenza dell'essere umano, cioè veramente torniamo a tesi pre-cartesiane. Quindi fondamentalmente ci sono tutta una serie di questioni che mettono in campo quando si parla del potere, per esempio. Io sono perfettamente d'accordo che i discorsi sul potere vadano collocati, però ritengo per esempio che non si debba e non sia corretto definire la politica, parlare di politica come un ambito che ha a che fare con l'istituzionale. La politica ha a che fare con la vita delle persone. Poi c'è una politica istituzionale, una partitica, c'è un sistema politico, per esempio, che noi col quale facciamo i conti, eccetera, eccetera. Però, per esempio, io credo che il soggetto nasca politico, ma non nasce politico nel momento in cui nasce elettore o non nasce cittadino. Nasce soggetto politico, poi cittadino, elettore e quant'altro è qualcosa che viene poi a strutturarsi successivamente, cioè nel momento in cui noi siamo qui, per esempio, per tornare al discorso che tu facevi, non è tanto il fatto che esista questo tavolo, ma come io uso questo tavolo, cioè la questione che è il problema accademico, il problema dell'università, no? Non è tanto che esista un tavolo che separa gli studenti dai docenti, ma il fatto che i docenti scambino l'autorità con l'autorevolezza. Vabbè. Sono d'accordo. Perfettamente d'accordo. Ma comunque magari in tutte le parti del mondo fossimo soggetti politici quando nasce. Lo capisco, no, ma lo siamo. Poi purtroppo c'è impedito fatto ricerca io. Sì, ma questo però, cioè nel momento in cui tu vivi in un contesto sociale, sei chiamato a mediare con gli altri soggetti coinvolti, in un modo o nell'altro, questo me lo insegni tu da antropologo, cioè nel momento in cui noi siamo qui, no? Noi non possiamo non relazionarci in termini sociali e quindi in termini politici. Assolutamente. Cioè se io per esempio, se io per esempio strutturassi il mio intervento, per esempio, ma cioè sto da questa parte, in una maniera accademica, in una maniera canonica, farei un tipo di intervento politico dentro questo intervento. Lo faccio in un altro modo, la mia è una posizione politica, tutti no? Noi facciamo ricerca, facciamo politica. Certo, no, ma noi quando esistiamo fortuna, facciamo politica, dire, perché essendo noi... ce la fanno fare, perché altrimenti... Ma la politica la fai comunque, anche quando la subisci, cioè nel momento in cui tu subisci l'impossibilità di fare politica, tu stai dentro un contesto politico. Come fai ad astrarre dal contesto politico? Cioè come fa l'essere umano a essere apolitico? Come fai? È come pensare all'essere umano come un atomo, come una monade che vive in un contesto asociale. È impossibile per come siamo fatti. Cioè noi non possiamo vivere in maniera monadica. Cioè siamo portati, no? Questo non so se in termini naturali, perché siamo animali o meno, questo lo lascerei dire a chi si occupa meglio di queste cose, non vorrei uscire dal mio ambito. Però non delegherei a nessuno il mio essere politico, anzi io non lo delego a nessuno, però non aspetto nessuno che mi autorizzi a essere. Sì, infatti sono ovviamente graditi interventi, qualunque sì, sistema, perché sennò perché esempio, da un po' quello che stavate dicendo proprio nelle ultime battute, tu hai detto siamo politici prima di diventare cittadini, prima dei partiti eccetera eccetera. Però forse accoglietela come una provocazione, non è più tanto così probabilmente, cioè nel senso, faccio un esempio stupido che forse riguarda più lo studio dell'antropologia, non me ne vuol dire tutto. Ripeto, non rappresento la filosofia, quindi non mi puoi offendere da questo punto di vista. Un bambino di 20 anni subisce il potere non potendo andare a mensa, non potendo prendere l'autobus, al di là della sua percezione di essere politico... Appunto. Pure se tu non lo percepisci. D'accordo, no, la mia domanda era, magari siamo già, oltre a essere politici, siamo già impregnati di potere, siamo già immersi da molto tanto nel potere da noi. Sì, sì, io su questo sono perfettamente d'accordo, assolutamente. Però nulla toglie il fatto che se tu te ne renda conto o meno, cioè se tu sei in gabbia, che il fatto che tu ne sia consapevole o meno non impedisce il fatto che tu sia in gabbia, no? Questa è l'idea mia, almeno la mia. Cioè noi possiamo anche pensare di essere liberi. Ma ci può anche questo discorso qui, no, dell'essere già ingabbiati in qualche modo dentro una rete di poteri che, non so, mi pare di capire, poi l'antropologia analizza i casi singoli e vede come in questi poteri strutturano, non so, cioè creano un'idea, un rapporto con il corpo, in qualche modo. E però mi chiedevo, cioè all'interno di questa maglia di poteri poi sembra quasi che non ci sia via d'uscita, no? Nel senso, non un'uscita dal potere, no? Non c'è una possibilità di gestire questo potere, ma la si subisce solamente, sembra quasi. No? Quindi volevo stare come schemi, perché non penso sia questa l'idea di. Volevo sapere appunto com'è che si definiva bene questa cosa qui della relazione di potere e che spazio in qualche modo lasciava poi a un corpo di agire, no? Anche a livello di casi, di casi particolari. Ci sono anche io sono assolutamente d'accordo che noi, diciamo, in linea teorica siamo dei soggetti politici, poi come la agiamo questa politica nella contingenza, tra l'altro c'è... No, perché mi vuole aggiungere la domanda che... Poi mi dimentica. No, vai. Anche perché da qui sto andando. Sì. No, sempre su questo, perché, cioè, se pensiamo ai corpi come già dall'inizio, diciamo, socialmente definiti, o comunque definiti all'interno di un paradigma di potere così, allora, dov'è che il corpo allora può fare resistenza? Perché se è un soggetto, diciamo, una materia completamente malleabile da questi influssi diversi del potere, diciamo, può, cioè, il corpo in sé ha dei meccanismi per invece resistere, perché io penso sempre all'esempio appunto del femminismo, per esempio, no? Cioè, alcune femministe hanno teorizzato l'isteria che il potere maschile aveva definito come prima della metà della settimana, che è quello spaziale. E visto che invece il circuito amoraro, ma anche altri, la pensano come una reazione del corpo all'imposizione di un... Anche De Martino, su De Magia. Quindi... Certo. Lì, allora, quindi il corpo, cioè, è possibile pensarlo non tutto dentro al potere, ma diciamo come anche un elemento attivo di resistenza, assolutamente di sentimento. Sì. Almeno, dal mio punto di vista. Sì, anche io ho rappresentato l'antropologia, poi l'antropologia ha talmente tanti difetti che si rappresenta male di per sé, ma soprattutto secondo me, perché ancora si concepisce come una materia sulla difetto tutto italiano. Sì, prego. No, però magari proprio sul mondo dell'immigrazione. Ad esempio, già il fatto quando lei citava la questione De Martino già aveva studiato, cioè il fatto che nel momento in cui uno definisce il corpo in quanto soggetto e non oggetto, già il termine soggetto dal mio punto di vista è un modo di collocarsi all'interno della società, e poi a seconda appunto di come uno lo analizza. De Martino poi andrebbe rivisto, ma insomma De Martino ha crisi della presenza, il fatto che c'era guarda caso poi questa donna Taranto, insomma stiamo lì a rifare la rava la fava. C'è differenza però tra essere soggetto attivo delle proprie azioni, per cui ad esempio ci sono anche delle buone politiche. Ora vogliamo dimenticare la legge sull'aborto, la legge sul divorzio, cioè non è che se quelle sono, io le rivendico, ancorché il mondo femminista oggi sia slabbrato come pochi e abbia il difetto di italiano del femminismo e la differenza, che poi andrebbe questo è un altro punto, insomma, che è una tipicità italiana. E che espelle tutte le giovani donne, tra l'altro, se non la differenza, questo sarebbe un altro tema corporale, per dire, interessante. Io dico quello che è, da questo punto di vista, e già mi sono dimenticato quello che dico, ma insomma, appunto ci sono anche, ad esempio, la migrazione che citavo. La questione della migrazione in Italia agisce su dei corpi che qui, ad esempio, sono oggetti. Non c'è, cioè la normativa italiana sull'immigrazione dimentica assolutamente quello che Sayad, un libro che invito tutti a leggere, lo conoscerete tutti, La doppia assenza, è un libro bellissimo, che dice, insomma, magari anche delle cose adesso passate un po' di moda, ma che forse se i nostri politici le leggessero imparerebbero qualcosa. Il fatto che appunto le persone sono anche soggetti politici, come diceva Marco prima, però guarda caso arrivano qua, non lo sono, perché gli immigranti tutto si può dire tranne che siano dei soggetti politici attivi, hanno delle forme di resistenza. Avete anche anticipato che siete giovani, ci sono delle forme di resistenza, però le forme di resistenza poi portano anche a vedere, come dire, sul terreno, sul territorio, delle forme di leadership che fanno più male che bene, e questo è un altro discorso, soprattutto nelle manifestazioni degli immigrati o nel tutto quello che è stata, noi come osservatorio sul razzismo abbiamo monitorato tutta la questione del consigliere aggiunto, e là viene fuori che, come dire, gli immigrati hanno preso in mano le norme, diciamo così, della legge sull'immigrazione, le hanno interpretate giustamente come loro pensavano fosse giusto, e poi alla fine la nuova consigliera aggiunto è diventata una farsa. Il consigliere aggiunto vuol dire che c'è possibilità per un immigrato del comune di Roma, sì, sapete come è stato eletto, noi abbiamo monitorato tutto, è stato eletto non sulla base del fatto che aveva un programma politico, ad esempio, che è il motivo per cui uno va a eleggere una certa persona, ma sulla base della provenienza geografica, e in particolare dicendo che sulla questione femminile doveva esserci, a prescindere, chi prendeva più voti diventava consigliere aggiunto, fatto salvo che bisognava avere una donna per le pari opportunità, che in quel caso, siccome una sola è stata votata, metti 10 voti, ha avuto il po'. Quello è un modo di interpretare voluto da Vestroni, mantenuto da Nanno. Allora, io, cioè, a lui risponderei no, nel senso che i corpi, secondo me, no, invece non fanno niente da soli. Ma perché? Perché... E torno su una questione, non vorrei in questo caso diventare troppo eccessivamente marxista, ma cioè perché uno è politicizzato, è politico, è il la politica è imprescindibile dal soggetto. Perché, per esempio, anche la legge sull'aborto, tutte le leggi più progressiste, tra virgolette, che noi abbiamo avuto negli anni 70-80, quindi dopo la stagione... Ma che non ci tolgono anche quelle, però. Ma ce le tolgono nel momento in cui sono state concesse grazie a delle mobilitazioni sociali, politiche, concrete, di masse. Bravo, di adesso soggetti. Quando c'è la protesta degli studenti, io volevo occupare, molti studenti, ma che fa, non vuole lavorare. Ok, perfetto. Vedi come, cambiando il tessuto sociale, cambiando l'autoconsapevolezza politica, cambia come il rapporto col potere. Nel momento in cui tu non rivendichi, perché, adesso, ripeto, non voglio apparire eccessivamente marxista, ma il concetto di diritto è un concetto fortemente fuorviante. I diritti non esistono. I diritti sono esattamente ciò che dentro le società, le masse o i soggetti politici si conquistano, si guadagnano con le unghie, con i denti, con quelli che sono gli strumenti che di volta in volta si danno. Non è che arrivino dall'alto delle norme, che arrivino dall'alto delle concessioni, vengono strappate, questo storicamente è così, no? Quindi nel momento in cui le contraddizioni operate dalla società nei confronti del potere sono contraddizioni importanti, allora lì c'è un conflitto, c'è una questione aperta e lì si vanno ad aprire degli spazi che portano a dei cosiddetti diritti. Quando poi questo conflitto, quando questa conflittualità, quando questa autoconsapevolezza, perché poi il problema fondamentale è che noi abbiamo anche delegato questa idea, no, di essere responsabili noi stessi della nostra vita politica, quando c'è una fase bassa, ovviamente il potere per sua natura, il potere che poi ha delle identificazioni ben precise, ora lo utilizziamo come un'espressione generale perché è fin troppo banale individuare oggi chi sia il potere, fin troppo scontato, almeno da noi o nei paesi a noi limitrofi, ecco che questi diritti vengono meno, ecco che queste leggi cominciano a traballare, ecco che questi che noi sembravano diritti, questioni inalienabili, questioni fondamentali, ecco che vengono meno, tanto più se le consideriamo in relazione a soggetti che arrivano nel cosiddetto nord del mondo, occidente, eccetera. Lì ovviamente è come se ci fosse un anno zero della lotta politica di queste comunità, di queste specificità, cioè è come se tutto fosse da fare in questo caso, è come se intere fasce di popolazione non avessero vissuto le stagioni delle lotte operaie, delle lotte studentesche, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è ovvio ed è normale che oggi l'ideologia politica dominante, anche quella filosofica, non riconosce queste lotte. Nessuna pagina dei giornali viene mai ricordato come queste norme sono state costruite, perché non è funzionale al potere. Ecco che i media riscrivono la storia, riscrivono le menti di coloro che poi li leggono, questi giornali, che ascoltano le radio, vedono la televisione, utilizzano il cellulare o navigano su internet. No, sempre durante il discorso potere, potreste e media, mi interessa il potere, dato che ho detto prima di che per, diciamo, per non cadere ai giochi del potere bisogna non fare in discorso del potere. E dato che io mi occupo di media, in qualche modo mi interessava sapere che vuol dire per lei o per me, per tu, per, cioè io non c'è. Sì. Per noi qui dentro, cosa vuol dire? A me danno del lei perché devo fare l'esame con me. Ah, ecco, vedi, è funzionale allora. È comunque funzionale. Per chi anche magari non è tuo inserito all'interno dello studio dei media in generale, cosa significa fare un discorso alternativo a quello del potere? Cioè, nel senso, se si ha la piena consapevolezza che fare un discorso alternativo a quello del potere voglia anche dire conoscere il linguaggio e lo strumento che si usa per fare questo discorso. Sì, sì, sì, è fondamentale, cioè è ovvio, è una grammatica, nel senso. È come quando tu studi, è come chi pretende, questo però, scusate, ma forse entro in una polemica che non compete alla giornata di oggi, come chi pretende di far musica senza conoscere la grammatica musicale, ecco, no? E il discorso è quello, bisogna conoscere, certamente non bisogna ignorare i meccanismi di funzionamento dei media, ecco perché studiare i media significa purtroppo anche assorbirsi ore e ore e ore di reality show, di fiction, eccetera, eccetera, ovvio che questo sia, faccia parte del gioco, però è evitare di piegarsi, di riferirsi esclusivamente a quello che i media impongono. Cioè, per esempio, il dibattito politico italiano sembra imperniato nell'ultimo periodo, dapprima l'estate scorsa o poco prima, imperniato intorno alla questione se il politico preferisca le donne, i transessuali o altro per le sue scappatelle familiari. Questo è stato per un lungo periodo quello che i media proponevano della politica italiana, tant'è che io, cioè, ogni tanto lo dico, all'estero mi chiedono sempre di queste cose qua, quando vai a parlare fuori ti chiedono sempre di questo, ovviamente. Poi adesso è una fase successiva, adesso la priorità in Italia, no? In Italia non è mai stata la priorità la crisi internazionale della finanza, perché ci hanno detto che noi non siamo stati toccati e quindi quello non può essere un problema per noi, però il problema è oggi stabilire se si è finiani o berlusconiani. Questa è italiana, stando ai media, è questo di cui si discute, non si discute, non si sa di che cosa si sta discutendo in Parlamento, non se ne sa uno di provvedimento di cui si sta discutendo in Parlamento. Questo in qualche modo, e però purtroppo, nella discussione politica prende spazio questa questione. Perché Fini dice delle cose che sembrano più di sinistra di non quelli di sinistra? Perché, no, cioè diventa, sembra, cioè una rappresentazione di agire politico, di discussione politica, quando in realtà è un'argomentazione che serve proprio per occludere la discussione politica, per evitare la discussione politica, proprio perché si ha all'indomani di una tornata elettorale che chiamerebbe a discutere di questioni concrete, e invece non si deve fare. Ecco, questo per esempio è un esempio banale. No, proprio quello che volevo dire è un po', cioè, l'esempio che dice è quello della giorno non può suonare, non c'è la marcia. Certo. Però è un esempio importantissimo perché riguarda le arti, no? Quindi per quanto riguarda la musica è un linguaggio per due semplice. Per quanto riguarda la televisione nello specifico, la televisione è un linguaggio molto complesso. Aspetta, la musica però, aspetta, no, ma non è semplice la musica però. No, non è semplice, però, no, ovviamente non è semplice. Quello che intendo dire è che per conoscere la grammatica musicale è differente da conoscere la grammatica per esempio televisiva, perché ci sono molte più grammatiche televisive rispetto alle grammatiche musicali, nel senso, continuare a usare il linguaggio televisivo nel stesso modo in cui si fa oggi, e in modo che poi permette di spostare l'accento su se si è finani o se si è finiani, se si è finiani, piuttosto di sapere quali sono i cambiamenti, leggi, norme che vanno fatte, stavo ripetendo il fatto che chi produce programmi televisivi, chi fa televisione, chi organizza i format, chi organizza per infesti, di fondo o non conosce le altre possibilità del linguaggio televisivo, o le ignora, o le rimuove volontariamente, diciamo, politicamente le rimuove. Cioè, è un discorso, cioè, il problema è che, cioè, allora, io credo, cioè, nel senso, tutto il lavoro che fanno nelle trasmissioni del gruppo di Maria De Filippi è un lavoro che dal punto di vista della tecnica mediatica è altissimo lavoro. No, no, ma sto dicendo che per me è una dichiarazione di stima, nel senso, dal punto di vista tecnico loro lavorano in una maniera impeccabile, cioè dal punto di vista tecnico, cioè sono persone, sono professionisti che conoscono benissimo il proprio lavoro. Il problema è che non è qui la questione sta nel fatto che quelle trasmissioni, cioè questo tipo di, poi noi stiamo parlando della televisione. Però, per esempio, io di solito cerco di evitare discorsi che parlino, cioè confondere i media con la televisione, perché la televisione è uno dei medium, cioè un medium all'interno di un sistema che è fatto per funzionare nella sua complessità. La televisione non è che una parte di quello che è il lavorio ideologico che si fa attraverso i media. La televisione è un po' la punta dell'iceberg, ma in realtà anche, per esempio, su internet ci sarebbe da dire moltissimo, e moltissimo di differente rispetto a quello che pure lì la vulgata farebbe sì che internet fosse il contropotere alla televisione, che è un'idiozia di dimensioni clamorose. Le dinamiche di internet sono identiche alle dinamiche televisive, cioè usare lo schermo di un computer per leggere poi un giornale, così come usare la televisione per animare film in pellicola, è più o meno lo stesso discorso. Sì, ma tornando poi, cioè, si usano internet, non si usa il computer, non si usa. Esatto, ma perché però? Per questioni che hanno a che fare con la politica, cioè noi, la tecnologia, non vorrei uscire un po' dal nostro discorso, ma se parliamo di media non possiamo non fare questo discorso, cioè la tecnologia che noi abbiamo a disposizione non è una tecnologia neutra, Cioè non è che la tecnologia è neutra e poi non la utilizziamo come ci serve. La tecnologia è frutto di un sistema industriale che ha le sue caratteristiche imperniate nel sistema capitalistico. Quindi non possiamo pretendere che da uno strumento che viene fuori da una struttura culturale poi noi possiamo farne un uso che è controculturale. Non è possibile. Perché per esempio nel caso della fotografia, del cinema, tutte le evoluzioni, o meglio, la nascita della fotografia, la nascita del cinema... La nascita pure della televisione andava in questa direzione, no, la nascita di internet andava in questa direzione, ma la nascita... No, aspetta, volevo dire, perché la nascita della fotografia, la nascita del cinema, non si sono assolutamente sviluppate su un contesto di mercato, di un contesto economico, no. Ci sono stati dei profeti tecnologici che... hanno utilizzato, hanno fatto queste scoperte, sono tantino chiusi, hanno veramente, ma concretamente hanno fatto questo. Sì, ma... Questo qui è importante, perché dice, cioè, per esempio, il caso, io vorrei, forse che si scrive troppo nello specifico, mi dispiace, però, proprio per capire molte altre cose, nel caso della fotografia, nel caso del cinema, il cinema non è stato inventato dai fratelli. Però questo è quello che passa, i cinema sono diventati per me che sono dei mercanti, non so che sono dei che erano dei imprenditori, ma il cinema non è stato diventato, semmai è stato rubato. Beh, molte invenzioni sono frutto di furti. Lo stesso con la fotografia, che alla fine seguisce la nascita della fotografia, non ha inventato la fotografia assolutamente, beh, ci sono dei processi in giro, insomma, non c'era una sola persona che indagava, erano diversi. Però insomma Daguerre ha chiamato la mia fotografia daguerrotipo. Un'altra persona che l'aveva inventata, invece di chiamarla daguerrotipo, l'aveva chiamata point of view, punto di vista. E questo politicamente. Sì, però c'è una distinzione tra l'uso personale della tecnologia e l'uso sistemico. No, perché lui è da 3 ore. No, io volevo solo specificare che io intendo che la tecnologia non può essere utilizzata in maniera anticapitalistica a livello sistemico. Cioè tu in un contesto sistemico non puoi utilizzare in maniera antisistemica. A livello personale è possibile, a livello di microcollettività è possibile poi sviluppare delle cose, ma il sistema presuppone tutta una serie di cose. Altrimenti vi chiedo io, qual è l'alternativa al sistema, per esempio, televisivo, quello di internet, eccetera, un sistema che si ponga in antitesi con quello che noi abbiamo imperato? Scusa. Perché ci sta l'intervento suo, mi sembra che anche lei non è troppo d'accordo sulla cosa. No, io lascio parlare. No, il problema è che parli a platea. Scusa. Io volevo rispondere a te riprendendo le parole. Poi fare una domanda a lei, dopo che dico un secondo, un paio di cose. Intanto mi sorprende che dal tema corpo e potere si parli di media, forse questo non mi sorprende molto, ma che ci andiamo a concentrare sulle dinamiche del linguaggio. Cosa mi sorprende un po', non mi piace, tra l'altro. Io faccio teoria della comunicazione, per cui... Insomma, io però te l'ho premesso il contatto tra mente e corpo, cioè io ho premesso che per me non esiste... Umberto è contratto di tanti studi sulla televisione, a partire da opera aperta fino a... A un certo punto della sua evoluzione, no? Di pensiero, no? Cercando di ragionare su cos'era il mezzo televisivo, su come andava interpretato, su come andava realizzata una resistenza anche nei corpi, poi ci arrivo dopo se ci riesco, perdonate che è un po' improvvisata la cosa, non sono preparato. A un certo punto Umberto Eco parla di guerriglia semiologica, è un semiotico, lui parte da una come dire, una sorta di riformulazione del codice, della teoria del codice classica, no? Per cui c'è un emittente, un messaggio e un destinatore. Lui propone, dal punto di vista del ricevente, una parte attiva nell'interpretazione del messaggio. E questa parte attiva viene data dai sottocodici ideologici. Sì, però questo lo dice Roland Barthes. Sì, ecco, lo riprende Roland Barthes. Copia da Roland Barthes. No, ma lo dico... Non ti sto correggendo, sto correggendo ecco. Non lo sapevo, io non ti ringrazio per la cosa. E qual è il discorso di Umberto Eco? Lui dice che dobbiamo fare guerriglia semiologica, cioè dovremmo mettere davanti a ogni televisore una persona, lui lo dice ovviamente facendo un po' di fanta, socialità, se mi permette questo termine, una persona che riesca a interpretare attraverso un sottocodice neurologico il messaggio televisivo che viene dato e, come dire, in un modo o attraverso processi sociali che probabilmente la professoressa Sofì conosce bene, quasi, come dire, diffondere un'interpretazione diversa. Mm-hmm. E mi sembra che questa presenza di un corpo, diciamo fantasioso spesso, quella presenza di un corpo che abbia un sottocodice ideologico che permette un'interpretazione del messaggio, la quale può essere poi diffusa a una socialità, a una comunità, mi pare una forma di resistenza forte. E mi pare che il sistema così imposto possa essere in qualche modo reinterpretato, insomma, rimodulato in maniera diversa. E mi chiedo, io una domanda che volevo fare alla professoressa rispetto a l'immigrazione, come gli immigrati vivono il rapporto con la TV? Nel senso, che cosa succede quando un immigrato sta davanti alla televisione? Magari nella società. Dipende quale? Quella di casa sua con la para. Con la para. Quale televisione o quale immigrato? Bravo, tutte e due. Parecchio così. È vero, tutte e due. Dipende quale, tale squilino con la parabolica, se lo squilino per dire il pigneto, forse lo conosciamo meglio. Dipende se sta a casa sua e guarda bengalese, se si guarda la TV bengalese, è un modo per rimanere a casa. Se guarda quella italiana, dipende. No, rispetto a quella italiana, più altro. Beh, io potrei. Io non ho fatto studi sulla televisione in rapporto con gli immigrati, quindi posso dare soltanto un punto di vista che è il mio, molto parziale, di cui peraltro appunto non conoscendo nulla delle teorie della televisione, che penso invece ad esempio all'interno dell'antropologia cominciano a arrivare un po', perché effettivamente sono anche vettori di identità cattoliche, direbbe il mio collega Piero Verelli, che ha scritto un libro sopra. Dipende, ad esempio, io conosco molte donne rumene che fanno lavori, che sono quasi tutte laureate peraltro, e che però hanno occupazioni in Italia legate soprattutto alle questioni della cura per nobilitare, per non dire badanti, che è un termine insieme a clandestino che fa venire l'herpes, che sono della cura e che guardano molto la televisione italiana e come dire, conoscono mediamente molta più politica di quanto la conosciamo noi, molto informate da questo punto di vista, le donne che conosco io, e poi guardano invece molto i programmi, appunto, Amici e quant'altro, e pensano malissimo dell'Italia, giustamente. Allora, quelle che conosco, però, non è che ci ho fatto una ricerca, dico, nel rapporto, come dire, individuale su questo, sarebbe interessante che ci fossero dei lavori scientificamente connotati, perché poi la televisione banalmente riprende dei fenomeni, per esempio appunto una volta a lezione parlavo delle questioni delle esposizioni universali, i cosiddetti zoo umani, quando sono state le prime colonie venivano presi i poveracci dall'Africa, piuttosto che dall'Indocina o dalla Cina, venivano messi nei padiglioni ricostruiti per loro a Parigi. L'isola dei famosi non va tanto distante. È un nuovo modo di mettere in scena l'alterità, sul quale sarebbe interessante fare dei discorsi, insomma, anche di costruzione delle percezioni dei corpi. Perché messa, come dicevo prima Marco, allora gli stranieri che guardano la TV dovrebbero chiamarsi. Cioè, se il sistema è fatto in un modo, allora parte poi una parola di parte dello che è stato citato, dice il linguaggio è fascista, come no. Allora, se la TV è fatta in un certo modo, che è formata da un sistema e dice delle cose, l'immigrato oggi in Italia, se guardasse la TV e ricevesse senza resistenza, e tu mi pare che lascia intendere più o meno questo, no? Penso che non c'è possibilità, Lorenzo ha risposto no, non c'è possibilità di emancipare i corpi, io a lui ho risposto questo. Ok. sì, vabbè. Perché la sua domanda era legata a questo percorso, no? Mi viene in mente questa cosa. Quando ci fu l'omicidio Reggiani, voi vi ricordate la questione del campo della signora che attraversava nella metropolitana in una zona periferica di Roma e venne aggredita, violentata da una persona rom che viveva in vicino, in condizione precaria, bla bla bla. La giornata, tutto ciò che arrivò sui media a vario titolo era rom violenta, uccide, bla bla bla, la campagna di Alemanno, no? L'espulsione, eccetera, eccetera, i campi, tutto questo problema dei rom che appunto non è mai studiato per quello che è, ma sempre per l'effetto mediatico che produce, mi verrebbe da dire là. Ad esempio, in quel caso là, il gruppo di signore rumene che io conosco si vergognavano. In questo senso, mi è venuta proprio stata una lampadina, mi segue questa cosa. Si vergognavano del fatto che avevano, ad esempio, in questo senso, incorporato, siccome le donne rumene, ad esempio, che conosco, sono tutte state vittime di violenza domestica. Il contesto sociale che già specifico, no? In quello che era un continuum di violenza domestica, in che cosa hanno visto? Si sentivano paradossalmente protette qui del fatto che c'era qualcuno in quel momento che diceva: oh, per fortuna hanno beccato sto rumeno, perché tutti gli uomini rumeni, faccio il caso specifico che è proprio, tutti gli uomini rumeni sono dei violentatori, delle persone violente, meno male che adesso c'è il focus su di loro, così noi ci sentiamo meglio. In questo era... mi sembrava, è un episodio interessante, perché c'era invece il fatto di aver incorporato una forma di emancipazione qui, immigrazione, per cui cavoli, io vorrei tornare a casa mia, però sto qui per lavorare, e poi c'è questo aspetto molto interessante del progetto migratorio che ha tempo determinato, che però si allunga, e quindi cambia anche la percezione di se stesse, del corpo, come cambia il corpo, sì, e dei diritti che da Dio invece, alcuni dei quali sono, come ad esempio la cura agli immigrati, finora gratuita, che ancora la deve stare, e che quindi ad esempio la televisione cambia anche le abitudini. In quel caso lì le donne rumene guardano più la televisione italiana che non quella rumena, mentre tu vai a fare, non so, a Pigneto, Bangladesh, guardano molto la televisione bengalese, i cinesi guardano solo la televisione cinese. Questo, fate delle ricerche su questo, però anche lì, se si fanno ricerche su questo, insieme alla questione dei mass media, ci vorrebbe, no? Io non devo difendere l'antropologia, ma l'antropologia è l'unica materia deputata a studiare la diversità. Questo mi dispiace, che lo rivendico come un elemento, perché le cose aberranti che si sentono sulla diversità, e la corporeità in particolare, per cui il migrante che ha le scarificazioni, secondo se sei un po' di sinistra, ah, guarda che bello, questo ha le scarificazioni, è tutta cultura. Se sei de destra o da scienze politiche, dove arrivo io, dove ci sono i fascisti, quelli veri, perché parliamo di questo, ah, quello l'immigrato, guarda, ci fa ancora perché è lo stato di natura, visto che parliamo di corpi, che sono tutte persone della vostra età, quindi no, visto che parliamo di corpi e potere, non so se... Ok, non ci sono altri interventi, altre domande? Non l'avevo mandato in crisi, No, ma io quando all'inizio dicevo che erano domande, che erano un contributo personale, insomma non è che scherzavo, era davvero, insomma, poi uno giustamente, cioè nel senso, non è che era, non era una cosa tipo, vabbè, falsa modestia, però sotto sotto che spero che uno mi risponda, cioè no, non lo faccio senza, no, senza speranza, insomma, però la cosa... No, però sulla seconda tua, io penso, se volete possiamo organizzarne un attimo, perché la seconda tua domanda è di un'ampiezza meravigliosa, che già di per sé il rapporto natura-cultura, cioè lei sa perfettamente quanta letteratura è stata scritta fino ad oggi e quanto diversi gli approcci siano, ma quanto soprattutto la scienza oggi sia, no? Quindi è una questione che o la affrontiamo, come dire, con le spalle coperte, oppure diventano veramente chiacchiere. Che vorrebbe dire mettere in piedi 700-800 seminari? Esatto. Fare un ciclo di 20 anni e dopodiché possiamo cominciare a parlare. Ma infatti c'era una reazione narcisista al fatto che non avete risposto alla domanda. Non siamo all'altezza. Io non sono all'altezza. non sta al livello per rispondere a una domanda di... No. Vabbè, però come... Io sicuramente, se dovessi riprendere quello che dici non ce la farei proprio... Non ce la farò, mi fai la fotocopia. Tra 10 anni magari, se rivediamo. Non lo so, può darsi. Vabbè, comunque la cosa importante è che c'è stata, no, una discussione, insomma, così... Spero che tu non l'hai vissuta come una caccia all'antropologo. Se no, una cacciata dell'antropologo o una caccia? No, la caccia è uguale. No. Però vabbè, nel senso... No, anzi, invece... No, però è stato anche interessante, capito? Perché uno magari non dà per scontato, no? Certe, come si può dire... Assolutamente. Analogie o certe comunanze che poi... Però mettete a disposizione diversa. Io invece ci credo... Secondo me talvolta la forma è sostanza, scusate, io sono un po'... Ma ci abbiamo provato, non si era dipende dall'aula. Ma qua si poteva però. C'era una colonna, assolutamente ragione, l'università italiana per certi versi andrebbe azzerata, e poi dalle cene, l'azzerata... Il pesce puzza dalla testa, volendo essere poco filosofici, cioè nel senso che lo zoccolo duro è una... Scusate, io però non tutti i baroni saranno... Anzi, ci fossero i veri baroni, quelli veri, della vecchia catena, sarebbe... Il problema è che la generazione dopo, che non ha studiato come i veri baroni, la generazione intermedia che non accetta di andare in pensione, quello è il vero problema. Su questo volevo dire una cosa, io ho portato, purtroppo sono venuto in treno, quindi ho portato soltanto 2 copie. Su questo tema c'è un professore, il professore con cui lavoravo io, che ha scritto un testo che si chiama Distribuzione della filosofia, che io volevo omaggiare a tutti voi, però venendo in treno non ho potuto, quindi ne ho portate un paio di copie, che voi non so, se vabbè, chi interessa qualcosa, magari se le gioca a Mora Cinese o come volete, me le regalo volentieri, perché per esempio su questo tema qua, su quello che è il ruolo del docente, quel rapporto dell'istituzione con gli studenti, dell'istituzione in quanto tale, siccome noi lavoravamo con la cattedra di istituzioni della filosofia, e lui si reputava il professore meno istituzionale della facoltà, allora lui ha cominciato a... È stata l'istituzione anticipata? È morto nel terremoto dell'Aquila l'anno scorso. E quindi, però questo è stato l'ultimo scritto che lui aveva dedicato e aveva scritto per gli studenti. Io con la casa editrice per cui lavoro l'abbiamo prima pubblicato come ebook, poi ne abbiamo fatto un'edizione, anzi, se vuoi prendere una copia, magari no, a loro... Magari poi me lo passano loro dopo. No, te la lascio, e allora tanto, siccome ci siamo in contatto, gliele porto un po' di copie e gliele faccio avere, perché tanto ne abbiamo. Noi abbiamo fatto questa edizione gratuita, omaggio, perché vorremmo che gli studenti, i docenti, eccetera, conoscessero un'idea un po' fuori da quelle canoniche nell'approccio all'istituzione filosofica, ma comunque istituzione accademica in generale. Quindi io oggi mi scuso, volevo portare, ma poi cioè, grazie. Non ci sono. Magari ve ne lascerò un po' di copie, poi mi dite quante ne volete e ve ne omaggio tutte quelle che volete, perché la nostra idea è quella appunto di far conoscere questo saggio di Guido Zingari. Quindi visto che abbiamo chiuso sul tema dell'accademia, dell'istituzione, dell'atteggiamento, secondo me per gli studenti potrebbe essere molto interessante la lettura di questo saggio. Per esempio, gli studenti dovrebbero cominciare a pensare che non tutti i docenti sono cattivi. Questo però devo pensare. C'è una frattura grossa, grossa, che le battaglie, ad esempio, di cui tu facevi accenno prima, molte battaglie si vincevano anche perché ci si unificava piuttosto che preparare. Adesso secondo me questa cosa non c'è più, ad esempio, neanche tra i docenti più giovani e gli studenti, c'è una frattura incredibile. È vero che ci sono scuole un po' a borsa e lecca piedi, però vedo che c'è anche altro, è un dato di fatto, però c'è anche altro. Oddio, uno non passa. È così. Va bene, allora... Grazie che siete intervenuti. Grazie a voi. Grazie a voi tutti. Vi vediamo l'11 maggio alle ore 14. Finale. Cos'è? Sull'accademia? No, sul linguaggio.